Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ti volevamo intervistare velocemente in radio. Ah, ma sei tu! Dicevo. Ma c'è anche la bella signora. Non mi aspettavo. Bene. Tu sei escursionista, oggi sì. Sei istruttrice. No, ho già lavorato, già finito, adesso sono qua. Okay. Quindi hai lavorato qua oggi? No, ero giù a Loano. Okay. In realtà sul pontile, adesso vado a camminare. Prendere... Quindi sei la tua giornata libera. Ok, quindi fai attività. Raccontaci brevemente, poi ti lasciamo alla tua giornata certo. Libera. Ma mi stai veramente intervistando? Sì, certo. Ah, ok, diretta radio. Ottimo, bene. Raccontaci quello che vuoi perché che sei qui a Ormea, quindi... Sì, perché io sono nata a Ormea, quindi è il mio paese di origine, anche se non vivo più qua da tot anni, ma scusami, torno ogni tanto perché faccio le pratiche di yoga anche qui, infatti stavo parlando con le ragazze che mi chiedevano per quest'estate, luglio ed agosto ci saranno le pratiche all'aperto, quindi al Parco Pollicino, ad Ormea, di yoga. Sì, è qui sulla strada. Ok, e niente, poi normalmente svolgo l'attività a Loano, Ceriale, Castelbianco, nei paesini che mi trasmettono vibrazioni positive. Bene, e senti, come la vedi? Di Ormea. Ormea? Da oggi in poi. Beh, Ormea per me è un pezzo di cuore, quindi spero, io la vedo bene perché sto facendo tutto quello che posso anch'io nel mio piccolo per renderla più bella di quella che già è. E Ormea è da scoprire, è da preservare ed è da reinventare, sì, perché bisogna comunque, c'è bisogno di spirito giovane e spirito voglia di fare. Poi le potenzialità ci sono, bisogna solo tirarle fuori. Tu lo sai che noi domani giocheremo Ormea nel 2030. Giocheremo dalle 4 in poi al grande gioco di Ormea, sì. Nella versione ormeasca, in cui cercheremo di immaginarci un Ormea nel 2030-2040. E quindi immaginati un attimo 2030, che ne so, la mattina mentre fai yoga cosa succede attorno a te? Ah beh, bellissimo, poi qua un sacco di verde, un sacco di sorrisi, di gente contenta, di gente che si vuole bene. Questo immagino nel 2030. Come adesso d'altronde, sì. No? Perché tu sei così. Io quindi sono così, tu certo vedi di quello portare che... questo verbo, sì. Sì. Perché sì, bisogna. Comunque, se hai un momento tra le 4 e le 7 e ti vuoi collegare, tu il mio numero di telefono ce l'hai. Sì, assolutamente. Quindi mi chiami e ti facciamo partecipare un pezzettino del gioco in collegamento. Che bello, sì. Va bene. Volentieri. Ok, va bene. Quindi domani tutti a Ormea per il gioco? Domani pomeriggio. No, oggi siamo qui tutto il giorno. Bene. Domani al pomeriggio dalle 4 in avanti. Ottimo. Bene. Buona passeggiata, scusate se l'abbiamo un po' trattenuta, eh? Ciao, bellissimo, è un mare mano? Ah, ecco che ha un po', è bellissimo, complimenti. Mi ha fatto piacere. Anche a me, no, ti ho visto. Ti aspettiamo domani con col mezzo che puoi. Ciao, buona passeggiata.